Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Salve e benvenuti a questa 17ª puntata del Pinsimonio radiofonico. Le parole di oggi sono carattere, indole, temperamento, atteggiamento e personalità. Cominciamo con la parola carattere, che è innanzitutto un segno tracciato, impresso o inciso, a cui si dia un significato. Più comunemente è anche la forma delle lettere di un alfabeto o dei segni di una scrittura, come i caratteri gotici, o anche il modo particolare con cui una persona traccia le lettere nella scrittura. Per estensione è un segno distintivo, una qualità propria che contraddistingue una persona, un organismo o un fenomeno collettivo, da una cosa o da altri. Da qui carattere è anche un segno distintivo, una qualità propria che contraddistingue una persona, un organismo, un fenomeno collettivo o una cosa dagli altri. Per estensione indica la qualità o la natura di qualcosa, in quanto si manifesta con determinati aspetti. In biologia il carattere è ogni particolarità di forma, colore, struttura, composizione chimica, funzione e comportamento che sia tipico di alcune categorie di organismi. Nella sua accezione più comportamentale, carattere è il complesso delle doti individuali e delle disposizioni psichiche che distinguono una personalità umana dall'altra e che si manifesta soprattutto nel comportamento sociale, nella disposizione affettiva dominante e nell'umore abituale, come un carattere mite o un carattere scontroso. È anche usato come indice delle qualità morali di una persona, come un carattere fermo. Continuiamo con indole, che deriva dal latino indoles, che propriamente in origine significava accrescimento. L'indole indica il temperamento o l'insieme delle naturali inclinazioni che concorrono alla formazione del carattere individuale, come agire secondo la propria indole. Per estensione, riferito a una cosa, definisce le sue qualità o i suoi caratteri essenziali. Continuiamo con temperamento, che anticamente in senso ampio indicava la mescolanza di più elementi in una giusta proporzione o anche la mescolanza in genere. È talvolta usato anche in significati figurativi per indicare alleviamento, moderazione o attenuazione. Temperamento è anche il modo o il mezzo che concili un contrasto, che appiani una divergenza, che elimini un ostacolo, che faciliti una soluzione o che ristabilisca un equilibrio. Cercare, trovare un temperamento. Nella medicina antica, secondo l'insegnamento di Ippocrate, il termine temperamento indicava la mescolanza in proporzioni diverse dei 4 umori fondamentali dell'organismo. Nella sua accezione comportamentale, nell'uso moderno, temperamento indica la componente dell'affettività, considerata in biologia biologica e quindi ereditaria, come parte della costituzione e della personalità individuale, dalla quale dipendono l'emotività e la qualità e la stabilità del tono affettivo. Con significato più generico, nel linguaggio corrente indica anche indole o un carattere, avere un temperamento emotivo. Infine, in astrologia, temperamento è il carattere di un individuo determinato da un astro, da un segno o da una costellazione, o da una qualità astrologica particolare. Atteggiamento significa modo di atteggiare, di disporre la persona o parte di essa, come movenza o postura del corpo, espressione del volto. Il suo atteggiamento sembrava piuttosto sospetto. Con riferimento più particolare alla posizione o alla postura del corpo in ginnastica, indica la figura assunta da un ginnasta o da una parte del suo corpo nell'esecuzione di un esercizio. O altrimenti indica in senso figurato il comportamento assunto da una persona o da una collettività in una determinata circostanza o nei riguardi di altre persone e collettività, o anche rispetto a fatti, dottrine e problemi, tenere un atteggiamento imparziale. Terminiamo con personalità, che in senso non comune significa l'essere personale, tipico o caratteristico di una singola persona, come la personalità di un'idea. In diritto, con riferimento a enti, società o fondazioni, è il fatto di essere riconosciuti come soggetti di diritto e di godere quindi di capacità giuridica e di capacità di agire. Ancora nella sua accezione comportamentale, in psicologia la personalità è l'insieme di quelle disposizioni e funzioni affettive, volitive e cognitive che si possono progressivamente combinare nel tempo ad opera di fattori genetici, di dinamiche formative e di influenze sociali, fino a costituire una struttura relativamente stabile e integrata, riconosciuta dall'individuo come propria ed espressa di volta in volta nel proprio particolare modo di interagire con l'ambiente, di determinare i propri scopi e di regolare il proprio comportamento. Talora è riferito per estensione anche a cose che si distinguano da altre dello stesso genere per i loro caratteri spiccati, un vino ricco di personalità. Infine,